Nuovamente buongiorno, è venerdì 6 ottobre, puntuali 11.30, quindi mattinata un po' incerta, poi arriva il jet live e puntuale arriva il sole. Noi siamo ben contenti di fare anche straordinario quest'oggi. Non ti do il buongiorno, Alfredo, ci siamo già salutati. Il buongiorno anche stamattina. Anche stamattina. Arri buongiorno. Poi l'entusiasmo per il jet live è un valore aggiunto con l'inizio di stagione, 25esima stagione con il jet club estense di Ferrara e il Torrione, che parte ufficialmente questa sera, quindi un triplice appuntamento che noi andremo a analizzare nel dettaglio partendo dal main concert. Poi avremo le voci di presentazione per quanto riguarda questo weekend denso ed eterogeneo di appuntamenti. Molta curiosità, la curiosità è un po', secondo me, anche perché non parleremo unicamente dell'aspetto musicale al Torrione, faremo anche una piccola divagazione in arte, ma parlando di musica, il main concert, il primo, essendo il sabato, quindi domani, vede Oad Talmor, Back to the Land, The New Music of Ornette Coleman and Huey Redman. La formazione, frontman Oad Talmor al sax tenore, Joel Ross al vibrafono, che è veramente un grande talento lui, ho già ascoltato la sua musica più volte e posso assicurare che sono molto curioso di ritrovarlo in questa formazione. Chris Tordini, contrabbassista precisissimo, conclude alla batteria Eric Mofferson. Allora Alfredo, tu sei più informato di me per quanto riguarda il frontman, io ho parlato di Joel Ross, che è un musicista che nel cuor mi sta, da Mick Jackson, questo cool jazz ritrovato nella scrittura moderna e l'interpretazione di Joel Ross. Anche Chris Tordini, un musicista che abbiamo già ascoltato e sentito in altre formazioni. Questo è un progetto un po' particolare e tu, appunto, in conversazioni precedenti mi hai parlato di Oad Talmor. Di chi si tratta? Chi è costui? Beh, un ragazzo chiaramente dotatissimo, nato in Svizzera e qui ha avuto prima studiato il pianoforte, quindi con una forte impostazione anche classica, poi si diceva anche settimana scorsa è approdato a New York e ha incontrato il sax sotto la guida di Dewey Redman, che è babbo non solo di Joshua Redman ma un grandissimo protagonista della musica di Coleman, e questo spiega anche la scelta delle Coleman, Redman, le musiche che verranno presentate al Torrione. E poi appunto subito si è, ha fatto una grande sodalizio con Lee Conn, attratto da questo incrocio tra la musica colta e la musica jazz, di cui Conniff è uno dei grandi interpreti evidentemente legati al cool jazz, e quindi ha affinato anche una certa di così rarefazione del suo sax. E allora adesso è qui in questa formazione, tu dicevi John Ross, vorrei solo aggiungere che non è un caso che Ross a 3 anni suonava la batteria e a 10 o 8, mi ricordo più, è passato all'ossilofono, al vibrafono, scusa, perché è tutta la percussività di questo strumento dalle radici africane viene questa continuità con la batteria. Dopodiché ho suonato con Marsalis, con tantissima gente, John Ross, fino a fare fu l'anno scorso, seppe che gli anni passano velocemente, che ha vinto come miglior disco delle chiamate emergenti. Devo dire che queste classifiche di musica jazz emergenti arrivano un po' in ritardo, però insomma sono emergenti affermati, sì, ma capita questo. Comunque è un bellissimo disco di questo modern art bop, però con delle trasgressioni, insomma, sì. Chicagoano ovviamente, perché è la grande scuola di Chicago, e vedremo come reinterpreta le musiche di Dewey Redman e Ornette Coleman, perché Ornette Coleman è al contempo un personaggio irripetibile, perché ha un modo di suonare che poteva andare su tutto, come il blu, no? Sulle canzoni, sul rock and roll, sul jazz, sul free jazz, su tutto. Però è una scuola per cui i colemaniani oggi direi che è proprio una grammatica musicale più che acquisita, forse ancora più dei coltraniani, pensando invece all'altro modo di suonare, dal tenore, la sonorità piena, la secchezza, l'epiful di Ornette Coleman. Vedremo come rivivrà Sì, certo. In questa interpretazione colta, che peraltro non è che strida, perché anche Ornette Coleman, tra le tante facce, era un musicista anche di cool jazz, di Third Stream. Ha partecipato a cose con John Lewis al pianoforte ed altri, no? I Jazz Abstraction, per intenderci. Tutta oppure serie. Le composizioni per violino, Skies of America, insomma. E la presenza in collaborazione in questi dischi di Eric Dolphy, insomma. Quindi vedremo quale Coleman prevarrà. Esattamente, e tutto ciò nasce in maniera molto particolare, perché con questi contatti vengono riscoperti dei lavori di Lee Konitz che non sono mai stati pubblicati. Sì. Ed è su questi lavori che Lee Konitz con Ornette proposte. Esattamente. Tu pensi quando un tempo, quando ma molto tanti anni fa, una sorta di semplificazione italiana, si metteva il free jazz contro il cool jazz. C'era tutto, perché gli italiani sono, forse non solo gli italiani, sono amanti dei talent. Delle cose chiare. Il bebop contro il cool jazz, quando esatto. Invece Tristano era la migliore piattaforma armonica per Charlie Parker, per esempio, e via dicendo. E certo, tante altre. Sì, è questa specie di derby. Ma no? Sai perché a volte, come si diceva un tempo, questa è una cosa inventata dalla critica, che fa delle barriere il suo mestiere. Si diceva una volta che la critica è la vestale dei generi. È abbastanza vero. I musicisti se ne fregano, suonano. Assolutamente, anzi direi proprio che loro, anzi mai chiedere ma che tipo di, ma in che genere ti ritieni appartenente, soprattutto in ambito di jazz. No, le sport è troppo scontatico, no, nessuno. In realtà, nessuno, avrebbero tutti. Avrebbero il coraggio di dire, no, io faccio questo. Esatto. Solo prima questo tenore con le voci di quelle frati spezzettate all'Ornette, però con sì. Influssioni alla Konitz chiarissime, quindi è veramente uno sviluppo. Infatti vorrei appunto sentire dal vivo, e avrò la fortuna di essere al Torrione domani per l'apertura della rassegna Main Concert, perché davvero la curiosità è tanta, è un po' il filo conduttore di tutta questa programmazione. Sì, i musicisti citati che poi vengono interpretati, se non che come The New Music of Ornette Coleman e Duny Redman, magari suonerebbero così adesso, ecco l'idea. Ti ricordi quando uscivano i New Old Deal Dreams, sì. Di Redman, Charlie Adden. Di Blackwell e Don Cherry, che facevano le vecchie banane cose di Coleman, anche poi ne facevano delle nuove, cioè questo ponte verso il futuro. quindi il main concert di domani, sabato 7 ottobre, con Ot Almor, Back to the Land, The New Music of Ornette Coleman e Huey Redman. Ribadisco: Ahmed Telmor al sax tenore, Joel Ross al vibrafono, Cristo Ordini al contrabbasso e Eric Mofferson alla batteria. Andiamo un po' a passo di gambero, giustamente anche per motivi logistici e per impegni di quotidianità. Qui con noi al telefono Piero Vittolo Bon del Torrione. Buongiorno Piero. Buongiorno a tutti, ciao William. Hai assolto un po' i tuoi motivi logistici, hai 2 minuti in questo caso per poterci parlare del progetto di questa sera. Ce l'hai? Guarda, ho la busta del Conad, si può dire Conad della radio ormai, l'ho detto, sì, in mano, e quindi sì, comunque ho assolto per adesso. Ok, allora, Lisa Mezzacappa Sextet, non fatevi trarre in inganno dal nome, lei è stata statunitense, anche se dichiari origini italiche, le Cosmocomiche 2023, quindi il lavoro di narrazione, raccolta di racconti di Italo Calvino, di cui ricorre il centenario, riprende insomma con un concerto che vede protagonista Piero Vittolo Bon, Marta Raviglia, Nazareno Caputo, Giorgio Pacorig, Jordan Glenn, che ritroveremo poi nella domenica di Istantanea, e Lisa Mezzacapra al contrabbasso. Allora, intanto, ci puoi dire qualcosa di più per quanto riguarda questa musicista, Piero? Lisa è una musicista che conosco ormai da una dozzina d'anni, con cui ho avuto il piacere di collaborare sia da questa che dall'altra parte dell'oceano. Anche recentemente sono stato nella Bay Area, nell'area, sì, di San Francisco, a suonare un bel po', diciamo, per la mia media di concerti. Lì tra le sue parti è stato un paio di settimane estremamente intense e divertenti. E lì è una musicista, appunto, che oltre ad essere una musicista fantastica, anche una grande amica con cui c'è proprio grande intesa anche musicale e umana, per cui è sempre un piacere, certo, collaborarci. Inizierà così, appunto, collaborazione con Istantanea anche per il venerdì, e poi c'è questa intersezione che è con le narrazioni di Calvino. Com'è nata, oltre che per il centenario, così, come vi siete trovati in questo contesto? Ma in realtà è un progetto che esiste già da qualche anno, che è stato già messo su disco con una band di musicisti statunitensi, tutti appunto della Bay Area, e parlando con Lisa più del meno di quello che si poteva fare qua in Italia, ho detto: beh, guarda che questa cosa che hai fatto, a parte che è un disco bellissimo, un progetto veramente molto ben pensato, organizzato e suonato da un gruppo fantastico, e le ho proposto di provare a portarlo da questa parte dall'altra parte dell'oceano, appunto, chiaramente cercando di mettere una pezza di difficoltà economiche che spostare un gruppo del genere, un sestetto, comporterebbe. E quindi alla fine si è optato per l'opzione ibrida, nel senso che Luisa ha portato Jordan Glenn, il batterista che ha suonato appunto in questo progetto, in questo disco, e poi ho avuto l'incarico di trovare dei musicisti che potessero essere, come dire, affini e adatti alla musica di Lisa. Quindi abbiamo chiamato Giorgio Pacorig, un grandissimo amico, anche lui pianista, in questo caso al Fender Rhodes e sintetizzatori, e Nazareno Caputo, che è un bravissimo vibrafonista con cui non avevo mai avuto il piacere di suonare, ma conoscevo i suoi dischi, e quindi ho voluto coinvolgere in questo progetto. Sì. E poi Marta Raviglia, che anche lei appunto ha una lunga frequentazione con Lisa, in questa doppia veste di narratrice e di cantante. Certo, e di interprete. Ieri eravate a Bologna, mi pare. Eravamo a Bologna al Museo della Musica, è stata una bellissima serata. Cioè, non ho dubbi, infatti io con impegni di DJ set non ho potuto presenziare, però certo, ieri Bologna era veramente tra Angelica e il Museo della Musica, con degli appuntamenti da non perdere. Siamo arrivati a questa sera al Torrione, parte la rassegna Istantanea, che poi prende piede nelle domeniche, di cui magari in termine a questa conversazione ci dirai qualcosa di più. Intanto ti passo Alfredo, così ti metti subito a tuo agio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alfredo. No, mio agio. No, questo rapporto con Calvino è vero, perché Calvino ha tante cose. Cos'è che vi attrae di più? Se c'è un elemento, gli animali, i Visconti, i baroni, città invisibili. Beh, in questo caso appunto le cose di comiche che rientrano un po', come dire, anche se un po' in maniera laterale nel genere della fantascienza, anche se insomma non possiamo propriamente definirli racconti di fantascienza, ma quell'elemento più fantastici. Esatto. Quello è il lavoro che ha fatto Lisa, è stato un lavoro molto come dire certosino e intelligente di trovare una chiave di lettura appunto in questi racconti, sul fatto di dare come dire, assegnare anche ai vari strumenti dei passaggi, dei ruoli chiave che sono presenti nei racconti, quindi sia le interazioni fra i personaggi che sono un po' come Pierino e il Lupo in qualche modo, sì, non in maniera così didascalica, certo, naturalmente, certo, perché chiaramente quando c'è di mezzo l'improvvisazione e soprattutto i musicisti che non hanno mai suonato insieme, in realtà è un gruppo che esisteva già, ma questa incarnazione del gruppo è totalmente nuova, quindi insomma come dire, c'è anche l'effetto sorpresa, novità di sentire questo suono nuovo, ha chiaramente dato adito a nuove interpretazioni, anche reinterpretazioni insomma di questa musica, e una nuova chiave di lettura probabilmente anche rispetto ai racconti delle Cosmic Comics. Quindi non dobbiamo pensare a un Calvino musicista là oltre il ponte, le sue canzoni. No, altre cose. Allora, o siamo diventati più bravi noi a fare le domande, o è diventato più eloquente Piero, o un po' tutte e due le cose. No, sto invecchiando. Allora chiacchieri di più, insomma. No, ma ne approfitto anche per un'altra domanda, perché ci sono queste nel concerto al Torrione con proiezioni immersive, leggo, dell'artista multimediale Charles Woodman alias Video Salvante. Uh-huh. Ecco, come funziona? Cioè, uno dice, io faccio su Calvino, tu mi dai le tue immagini, oppure allora, la musica, oppure c'è un conciliabolo prima, come funziona la cosa? Funziona che sarebbe dovuto Charles, che tra l'altro ho avuto modo di conoscere San Francisco, è un fantastico videoartista che sarebbe dovuto essere dei nostri e commentare in diretta, improvvisando col suo setup, suo magico setup di vari software e ammennicoli vari, con i suoi video il nostro concerto. Purtroppo non è stato possibile averlo con noi, quindi ha preparato un pre-montato che comunque è veramente suggestivo, a commento del nostro concerto, quindi insomma vi invito a venire anche per ammirare le lucubrazioni psichedeliche, certo, che Charles ci ha preparato. Ma presto parleremo di lucubrazioni. Prima una piccola curiosità veloce: Cosmic Comics, ho letto bene per la serata di ieri, quindi c'entra l'immagine, la grafica, comics, il fumetto? Chiedo. Beh, questo bisogna chiederlo a Calvino, sono diverse interviste, cioè è il titolo dei racconti di Calvino, sono la raccolta le Cosmic Comics, proprio il titolo Cosmic che ha deciso lui. Però ieri ho letto, quindi, Cosmic Comics. In Italia chiaramente le versioni inglesi si chiamano Cosmic Comics, ma come dire, Calvino stesso in intervista dice che la parola comiche l'ha mutuata proprio sia dalle comiche cinematografiche che dai comics americani, quindi insomma c'è una stretta correlazione anche con l'immagine. Era un grande amante dei fumetti Calvino. Quindi con l'immagine volevo questo chiarimento, scusami. Sì. Per quanto riguarda le domeniche di istantanea, e parlavi di lucubrazioni, tra l'altro non solo con Eloquio ma anche con questa fantasia, ma questa la conosciamo bene, l'incontro tra filosofia e musica. Sì, è un progetto, saranno questi, che tu hai sempre così covato, ci puoi dire? No, non è una mia idea. Abbiamo Cesare quel che è di Cesare, è stata un'idea di Francesco Bettini e di Alfonso Santimone, al quale tu non ti sei tirato indietro. No, beh, chiaramente no, che discorso. E ci puoi dire qualcosa di più? Ma non so, sinceramente non ricordo quando saranno, se saranno tutte le domeniche, non credo, non mi ricordo quali domeniche della rassegna istantanea saranno aperte da questi aperitivi filosofici. Ergo sum. Non lo so, vedremo. comunque ecco, mi cogliete un po' impreparato su quando saranno. Ma è la mia curiosità, per me questa è una stagione 25esima estremamente curiosa, quindi sono io che ti ho portato un pochettino a fuori campo per colpa della mia curiosità. Avremo modo di. E quindi domenica si conclude con Jordan Glanz Beck and Solo, con la partecipazione degli allievi del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Allora, a tale proposito, tu sei co-curatore, insomma, della rassegna con Istantanea. A questo punto, linee generali della rassegna della domenica al Torrione. Le linee generali sono le seguenti. Non, in realtà non c'è una vera linea generale estetica, perché insomma nel programma si troveranno dei concerti, diciamo, di jazz propriamente sì. detto, delle escursioni nella musica classica, cosiddetta contemporanea, e anche nella libera improvvisazione, certo, più o meno idiomatica. Quindi insomma ci sarà un po' di tutto, saranno dei gruppi tendenzialmente più piccoli, di musicisti che magari più difficilmente calcano i palchi di un jazz club, ma non c'è, però che calcano quello di Ferrara, e per cui insomma si cerca di portare il più possibile delle ibridazioni, certo, ecco, e delle nuove frontiere in un posto insomma dove di solito queste cose sono più difficili che accadono, però insomma al Jazz Club cerchiamo di farle accadere. Cioè, accadere, ok, io ti ringrazio tantissimo, ti lascio ai tuoi impegni, se no qui col caldo la spesa non è un buon incontro, ecco, ti lascio andare per la tua quotidianità. Saluta tanto Lisa che è lì. Sarà fatto. Poi ci diamo appuntamento al Torrione. Ti ringrazio. Ok. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Buona giornata. Adesso devi dirmi che sta andando. Dai, facilissimo. Dai, piano. Ti tolgo il microfono. Arblichi. Poi l'ascoltiamo, tra la pubblicità. Beh, bellissimo. Ho portato questo disco perché sapete che ogni volta 1959 sono. Sì, è uno dei dischi bandiera dell'Art. Night in Tunisia. Night in Tunisia con i Jazz Messenger. Wayne Short. Con anche Lee Morgan, Wayne Merritt, insomma. E perché ho portato un batterista, perché è l'esserico tonale. Un batterista. E alla faccia direi un signor batterista, Max Roach, sì. Tanti altri, Ed Blackwell anche, Billy Higgins, insomma potremmo, ne conosciamo qualcuno, dai. Jordan Glanz, anche lui sarà Beck and Solo per Serico e Tonale di domenica. Cosa volevo aggiungere? Perché ho portato Art Blakey? Ah, perché c'è la sua batteria al Torrione anche. Ah sì, è vero, sì. Questo cimelio. virtuoso Lee Morgan avvicinandoci alla pubblicità. Scusa Alfredo, ma io cosmicomiche non lo traduco in cosmicomics, perché la parola comics sì. È fumetto, hai capito? Ma sì, però... ma la traduzione italiana di fumetto è sempre complessa, la storia è lunga. Ah certo, so che risale al 1900. E ricordiamo l'appuntamento di domani. Ah, hai ragione, dalle 5 in poi la nostra emittente Radio Fujiko assieme a Villa Paradiso da vita a Villa Paradiso che via Emilia Levante 138 a questo dibattito, conversazione sulla censura. Infatti si chiama il bavaglia paperino. È sempre arrabbiato, sempre qualcosa da lamentarsi. C'è da lamentarsi e ci saranno diversi oratori, relatori, che vedranno la cosa anche da un punto di vista differente, cioè Luigi Bona del Museo di Milano UO parlerà della censura storica sui fumetti, ci sarà Stambulis che parlerà della censura, penso molto all'estero, ci sarà Marco Fincardi che parlerà della censura sul Pioniere, e chi legge il Pioniere veniva addirittura scomunicato ancora prima che censurato. Stamattina Morena. Lui e la sua famiglia. E poi avremo Chiarello che è del Centro Studi Archivio Berti. Berti, siccome era uno dell'astrattismo e invece a sinistra imperava il socialismo danovismo, venne messo all'angolo dagli atti Trombadori. E quindi venne censurato. Cioè venne quindi era abbastanza trasversale la cosa. Sì, sì, sì, beh, è ovvio, la censura è un elemento che fa parte anche di una cultura conservativa, oltre che chiaramente strumentale. Vabbè, quando negli anni 50 ci provo a mettere a sfruttare un problema del PC proponendo la censura in Parlamento, vuol dire che il PC si oppose. Ma almeno quello, certo. Comunque invece poi, come vedremo, sarà censura poi di ordine nascosto. C'è per esempio Giuseppe Palumbo parlerà dell'autocensura quando tu non fai una cosa sapendo che va in tante quelle grane che non la fai. Allora dici no, quindi è una censura quasi preventiva. Censuro da solo. Sì. Oh, devo dire che tutto è moderato da Piero Domenico, sì? Che non solo è un grande redattore di Radio Fujiko, parla di sport, parla di non tutto aspetto che parla di cinema. Ma è anche un esperto di fumetto, oltre che redattore del Corriere della Sera. E quindi tutto ciò domani alle ore 17 a Villa Si mangia? Sì. E poi c'è la presentazione della graphic novel edita da Cocconino. Sono preparato? Sì, dai. Sì, abbastanza. Dai, sei meno. Dopo la pubblicità rientriamo in diretta, ricordiamo il concerto del sestetto di Lisa Mezzacappa e poi vi ho parlato anche della rassegna. Ne abbiamo parlato più volte delle rassegne nelle nicchie del Torrione. Ok, daremo approfondimento. Se riusciamo a intercettare l'artista che è figlia e nipote d'arte, si chiama Olivia Santimone, quindi insomma qualcosa ci dice. A tra poco! Di Nate in Tunisia, di almeno 2 minuti di finale. Sì, finalone. È spettacolare, certo. Abbiamo questo rientro in diretta, abbiamo sentito la voce di Piero Bittolo Bon all'interno della formazione con Lisa Mezza K nel sestetto, nell'interpretazione delle Cosmicomiche, Italo Calvino, edizione 2023 in questo caso per il centenario, Marta Raviglia alla voce, Bittolo Bon fiati ed elettronica, Nazareno Caputo al vibrafono, Giorgio Pacorig alle tastiere all'elettronica, Lisa Mezza K al contrabbasso, Jordan Glenn che sentiremo in chiusura del nostro format, perché sarà anche per la rassegna sericotonale con Istantanea. Jordan Glenn, batteria e conduzione, con la partecipazione degli allievi del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Questa invece è la domenica 8 ottobre, è la conclusione. Questo è l'assaggio per il concerto di questa sera, ma come ben sapete Torrione e l'arte vanno a braccetto. Aprirà la 25esima edizione del Jazz Club Estense un'esposizione nelle nicchie del Torrione, Melofobia di Olivia Santimone, che è qua al telefono con noi. Buongiorno Olivia. Buongiorno. Ben arrivata. Allora tengo bassa la musica così non ne sei infastidita. D'accordo. Ok. No, non è casuale questa, anzi c'è poco da ridere, perché insomma ci puoi spiegare di cosa è successo che ti ha portato all'esposizione al Torrione, insomma, che è riguardante anche un aspetto disagevole, se vogliamo, no? Ci puoi dire qualcosa di più, sì. Olivia? Allora, l'idea alla base della quale nasce la mostra viene fuori un po' dal mio rapporto con la musica, che è una cosa fondamentale per me nella mia vita. Io sono una grandissima appassionata di musica, infatti non è un caso, insomma, che sia finita proprio al Jazz Club a esporre i miei lavori, e che però spesso risulta un rapporto difficoltoso, diciamo, questo mio rapporto con la musica, per il fatto che soffro di emicrania cronica e ho una forma molto molto grave, diciamo, di emicrania, per cui mi trovo per mesi e mesi e mesi a rannicchiata nel letto, insomma, senza riuscire ad accettare stimoli sonori, visivi, di qualsiasi tipo. E diciamo che appunto il mio rapporto con la musica è messo in particolare a sì, un po' in difficoltà, sì, per la causa di questi avvenimenti, insomma, di questi momenti in cui effettivamente mi riesce molto difficile sia ascoltare sia suonare, o in generale accettare qualsiasi tipo di rumore o di suono nella mia zona. E tu l'hai riportato così, in maniera figurativa. Esattamente. Sì, diciamo che più che avere l'intenzione di rappresentare questo fatto in maniera figurativa, cioè sicuramente da una parte questo, dall'altra parte il fatto che comunque queste sono 15 illustrazioni che ho realizzato nel giro degli ultimi 3 anni, che sono stati 3 anni in cui la mia malattia è stata particolarmente presente nella mia vita di tutti i giorni, e quindi diciamo, oltre che un fatto rappresentativo, visivo sicuramente di questo problema, rientra anche nel fatto che tutte queste illustrazioni sono state realizzate in momenti in cui io effettivamente sono stata molto male, quindi sono anche frutto, oltre che magari dal punto di vista sonoro della mia idea, del mio rapporto col suono, vengono fuori anche dal mio rapporto proprio col visivo, nel momento, sì, in cui vengo attaccata, sì, diciamo, colpita, certo. Esatto. Beh, noi innanzitutto in bocca al lupo per quello che può essere anche una riduzione di questo disagio importante. Grazie, sì, dai, ci stiamo lavorando, sta andando bene ultimamente. Esattamente. E tu, noi ci siamo conosciuti in conferenza stampa, poi ho preferito, sì, parlare con te in diretta, e non ti sei definita né grafica né illustratrice, se vero, ho capito bene. È vero. E quindi, è vero. Perché questa sorta di allontanamento? Beh, diciamo che io ho sicuramente tanti aspetti diversi e tante passioni diverse, insomma, che mi tengono occupata la vita, e l'illustrazione è sicuramente una di queste. Sono stata sempre un'appassionata disegnatrice fin da quando ero bambina, e ho studiato un anno all'ISIA di Urbino, sì, sarebbero dovuti essere 2, però anche per questo, insomma, ho deciso di lasciare questa strada, diciamo. Sono rimasta un anno soltanto e sono tornata a Ferrara. Io in realtà sono laureata in triennale in matematica e adesso sto studiando alla magistrale sempre di matematica qua a Ferrara, perché nella vita vorrei insegnare matematica, certo. Quindi io sono molto appassionata di matematica, ancora di più appassionata di musica, e l'illustrazione, diciamo, che ogni tanto compare nella mia vita. È uno spin-off che è importante. Esattamente, è uno spin-off molto importante. Molto importante, però sì, non mi sento di definirmi illustratrice proprio come... perché mi sembra che categorizzi a tutto molto, tondo, no? Ti senti così all'interno della categoria. Sarà, esatto, fino al 17 dicembre nelle nicchie, esatto, del Torrione. Melofobia, anche le due parole dall'etimo greco, insomma, lasciano a presagire, mm-hmm, molto di, mm-hmm, quello, esatto, già dal titolo. E... mi prendono sempre in giro perché dicono che disegno cose inquietanti, quindi io ho giocato anche un po' su questo. Rappresenta poi, beh, indubbiamente, però tu col sorriso che porti cerchi anche con l'ironia, di, ma oltre sì, cerchiamo che di stare tranquilli, contenti. Con il talento grafico, anche con l'ironia, che è sempre molto importante. È da questa sera, aprono i venerdì, apre ufficialmente la 25esima stagione del Torrione. Olivia Santimone sarà presente. Quante opere hai detto, Olivia? Sono 15. 15 opere appunto all'interno delle nicchie del Jazz Club Estense. Quindi ci ritroveremo, io ti ringrazio tanto per questa grazie conversazione, mille a te. Per il tuo tempo, e poi ti auguro una buonissima giornata e buon grazie tutto. Altrettanto. Ok, ciao, ciao, grazie. Olivia, ciao. Grazie. Big and Solo per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea. Lo stiamo ascoltando qua in un altro live, quello di domenica, ovviamente essendo Serico Tonale Istantanea in conduzione, con la partecipazione degli allievi del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Come le rassegne della domenica, anticipato Piero Bittolo Bon, sono cosa certamente legata alle sonorità, anche e non solo, ovviamente troveremo something else, qualcosa di altro all'interno del Jazz Club Estense del Torrione. Ecco l'hand clapping che accompagna la batteria di Jordan Glenn. Perché lui fa questi incontri, questi studi, e allo stesso tempo lo troviamo nel sestetto di Lisa Mezzacappa per le Cosmicomiche questa sera, sempre e comunque al Torrione. Tanto entusiasmo, Alfredo, concludiamo con Federico Danneo, il presidente. Finiamo col botto, fuochi sì. D'artificio. E poi devi sapere che, come ho anticipato la volta scorsa, ci sono grandi novità dal punto di vista tecnico per la diffusione dei concerti. Certi, ma di questo ne parleremo in maniera molto telepatia più profonda. Ah, delle cose che io sinceramente, che non sono esattamente un esperto nel suono, nel digitale, però sentiamo qualcosa di più tramite l'entusiasmo di Federico Danneo, che è presidente del Jazz Club. Allora, siamo con Federico Danneo, presidente del Jazz Club Ferrara, tra l'altro che capita nel suo 25esimo anno. Quali emozioni, guarda, di questo compleanno? Un sacco, perché dico, io da quando ho avuto l'onore di essere nominato presidente del jazz club, cioè, ho fatto solo delle grandi cose, ovviamente non per merito mio, ma per merito di questo staff meraviglioso, quindi un CD con la Tower, i grandi concerti, insomma, abbiamo inaugurato delle stagioni anche d'estate, quindi abbiamo abbiamo messo in atto due borse di studio meravigliose a nome di Emanuele Rossi. Oggi, insomma, c'è un'altra bellissima collaborazione che parte con una piattaforma online che si chiama Jazz e che quindi ci lancia veramente nel mondo. Quindi, cosa posso dire? Io vedo anche delle innovazioni tecniche. Sì, sì, noi qui veramente siamo contentissimi e io, cioè, mi illumino della luce del Jazz Club. Quest'anno c'è anche, come ho detto, un aspetto diverso dal punto di vista tecnico, proprio per questa diffusione estremamente capillare. Assolutamente, assolutamente. È una cosa bellissima, perché noi su questa piattaforma che, cioè, si sviluppa nel mondo, è una piattaforma dove ci sono altri jazz club nel mondo, insomma, e che attraverso OJazz si svilupperà con della tecnologia in remoto, quindi alcuni concerti saranno registrati, ci sarà una regia in remoto di cui noi non sappiamo niente, vediamo solo il prodotto finale, però veramente io ho visto altri concerti su queste piattaforme, sono veramente di una stessa qualità sia musicale che, diciamo, di video. E quindi, insomma, in questo anno, che sarà poi il prossimo anno, il 25esimo, è un'altra cosa in più che noi mettiamo per mettere la ciliegina sulla torta. Certo, certo. Allora, difficoltà. Ma difficoltà direi poche, ma poche perché c'è un grande lavoro dello staff, cioè questo uno si immagina che c'è solo il concerto, bisogna organizzare un concerto e vedere un concerto, insomma si tratta solo di mettere insieme la parte tecnica, la parte artistica, in realtà insomma, gestire una stagione del Jazz Club del Torrione è molto di più, perché anche se noi abbiamo una programmazione di 3 giorni, programmazione artistica, insomma c'è tutto un lavoro dietro che non finisce mai, quindi insomma le difficoltà le superiamo quando ci sono, con l'entusiasmo e con la voglia anche di trovare le soluzioni. Per esempio, durante l'anno del Covid è stato anche un anno di, insomma, di sviluppo di nuove cose, quindi, e questo si riesce a fare perché, diciamo, c'è una sinergia all'interno delle persone che sono tutte diverse, hanno tutte idee diverse e molte caratteri diversi, però insomma tutta questa diversità, come nel jazz, no? Certo. Come nelle jam session, poi alla fine ci permette di improvvisare e di dare il risultato migliore possibile. E io ti auguro una buonissima stagione. Grazie. Grazie, e insomma tu sei dei nostri, sei sempre in prima fila, insomma, e quindi noi siamo molto contenti che passeremo la città Fujiko sia con noi. Grazie. Grazie a te. Grazie. Questa bossettina per me è una roba. Bobby Timmons, I'm so tired, sono così stanco. Non si direbbe dalla musica, appunto, composta da Bobby Timmons all'interno di A Night in Tunisia, che è la nostra sigla di conclusione. Radio Città Fujiko Jazz Live con il Jazz Club Il Torrione di Ferrara. Ecco, questo è l'antipasto, anzi, questo è il menù di venerdì e del fine settimana. Siamo giunti al termine. Lo so, è la sambettina. Diamo un consiglio molto ai nostri ascoltatori per riconoscere Art Blakey. Dai. Questa rullata che lancia gli assoli dei solisti. Questa è un marchio di fabbrica, non potete sbagliare. è la chicca in conclusione nella rubrica di Alfredo Pasquali all'interno del Jazz Live. Ti porterò per ogni musicista un motivo per come riconoscere. Fosse così facile. Beh, studiamo intanto. Un buon weekend, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao, buona musica, buon jazz.